9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno, torno ad augurarvi un buon martedì 8 dicembre, festa dell'Immacolata. Oscar Giannino da una Milano priva di traffico, visto che il giorno è festivo, vi propone un tema che riguarda, per così dire, l'economia del dono, che non è antieconomica, anzi dà sostegno e vigore proprio a coloro a cui spesso il mercato, per una sua miopia, perché non lo considera incardinato di capacità di spesa, tende a escludere. E a 6 milioni di italiani invece la scelta del volontariato, dell'economia del dono, della profusione del sé, del meglio di sé per gli altri, sembra una cosa molto importante nella vita. Sono 6 milioni gli italiani impegnati nelle organizzazioni del volontariato, cristiano, cattolico, laico, nelle misericordie, nel servizio agli anziani, ai disabili. Insomma, il volontariato è una spina dorsale del nostro paese che testimonia inequivocabilmente come non è vero che gli italiani siano animati da una tara atavica di fondo che si sintetizza in Machiavelli, Guicciardini e nel fregati tu che me ne frego io. Al contrario, basta aver passato un po' di tempo negli ospedali per vedere quanto importante sia l'azione del volontariato, o magari nei quartieri in cui si concentrano i problemi di maggior disagio e di maggior non integrazione sociale. Ebbene, il 4 e 5 dicembre, questo è il nostro spunto, cioè venerdì e sabato della settimana scorsa, si è tenuta un'importante assise nazionale dei maggiori coordinamenti di queste centinaia e centinaia di associazioni, in realtà sono oltre 40.000, che in Italia comprendono gli oltre 6 milioni di italiani che si danno al volontariato. Queste centrali, per così dire, del volontariato, cioè il forum consulta nazionale Convolle csv.net, hanno tenuto in questi due giorni, il 4 e il 5 dicembre, una assise nazionale a Roma, all'Aula Magna della Facoltà di Lettere della Terza Università, un incontro lanciato su un impegnativo programma, su un documento che poi è stato anche, dopo il dibattito, assunto. Si è andati dal Capo dello Stato, il Capo dello Stato ha pronunciato parole impegnative ha pronunciato anche il ministro del welfare Maurizio Sacconi, e hanno partecipato naturalmente i coordinatori di queste diverse quattro piattaforme, cioè Andrea Olivero, il portavoce del forum, Fausto Casini, il coordinatore della consulta, Emma Cavallaro, presidente della Convo, Marco Granelli, presidente di csv.net. Insieme ai nostri ospiti che ora vi presenterò faremo un pochino il punto sui maggiori punti aperti sui quali l'ordinamento pubblico, lo Stato, che si articola non solo nel centro ma anche nelle autonomie, a tutt'oggi non garantisce a queste migliaia di associazioni un'importanza, un rilievo, un sostegno proporzionato a ciò che esse fanno tutti i giorni. Mi limito a ricordare alcuni dei punti aperti su cui si è tenuto questa importante assemblea. C'è una questione innanzitutto che riguarda il sostegno finanziario. Sostegno finanziario che, come è noto, da alcuni anni si incardina su la scelta volontaria del contribuente, il cosiddetto 5 per 1000, caro al ministro Tremonti, e che però non è mai stato stabilizzato nel nostro ordinamento. Cioè non c'è una cifra fissa a copertura pluriennale che consenta alle organizzazioni di farsi bene i conti. Il 5 per 1000 resta coperto solo di anno in anno successivamente a seconda dell'andamento del bilancio dello Stato, e questa cosa è molto problematica, punto numero uno. Punto numero due, resta molto in ritardo oramai anno dopo anno il riconoscimento delle risorse che magari anno dopo anno si hanno problemi a coprire. Quindi succede che attualmente, e siamo alla fine del 2009, a pochi giorni dall'inizio del 2010, noi non siamo ancora ben consapevoli di come sono state attribuite gli elenchi definitivi, le risorse del 5 per 1000 per l'annualità relativa al 2007, cioè per i redditi del 2006, sulla scelta fatta per le dichiarazioni dei redditi 2006 dei cittadini. Pensate con quanto ritardo siamo, e pare che ci siano 7.000, 8.000, 9.000 associazioni almeno escluse da questo elenco. Sempre dal punto di vista fiscale, perché è il fisco la maglia attraverso cui lo Stato ci fa passare tutti per capire bene chi siamo, che cosa prenderci e un pochino meno generosamente che cosa darci. Sempre dal punto di vista degli adempimenti fiscali, i moduli attraverso cui le associazioni si devono mettere in fila per i riconoscimenti, si chiamano moduli E, Ideas, bisogna presentarli tra pochi giorni, entro il 15, e il termine è tale da mettere in difficoltà molte delle associazioni che non possono contare su chissà quale assistenza fiscale, perché non hanno molti soldini e quei pochi hanno preferiscono spenderli in quello che fanno. Ecco, sono solo alcuni dei temi, poi ci sono problemi di aggiornamento del quadro di leggi, la legge 266 che disciplina il settore, la revisione dei criteri per l'albo delle associazioni del volontariato. Sono alcuni solo dei punti che ho richiamato. Ora vi presento i nostri ospiti chiedendo a loro un giudizio su come si è articolato questo dibattito e soprattutto su come siano soddisfatti o insoddisfatti del livello di attenzione delle istituzioni pubbliche. È un programma oggi che vi offriamo nella certezza che 6 milioni di italiani possano anche ai nostri microfoni, alcuni di loro oggi, darci qualche testimonianza e qualche opinione anche un po' puntuta di come il pubblico resti disattento nei loro confronti. Allora, i nostri ospiti sono innanzitutto, e li ringrazio per essersi resi disponibili in questo giorno di festa, Fausto Casini, che è il coordinatore della Consulta Nazionale del Volontariato e presidente dell'Associazione Nazionale Pubblica Assistenza. Buongiorno Casini. Buongiorno a voi e a tutti i vostri ascoltatori. Poi ringrazio tantissimo Don Vinicio Albanesi, che è presidente della comunità di Capodarco. Buongiorno Don Vinicio. Buongiorno a voi. E in questa prima parte insieme a noi anche Luigi Bobba, deputato del PD, da sempre attivissimo su questi temi e su quelli della sussidiarietà. Buongiorno onorevole Bobba. Buongiorno a tutti. Allora, Casini, qual è il bilancio di questi 2 giorni? Iniziamo non tanto a essere diplomatici, ma sui punti, sui maggiori punti, quello fiscale, quello del sostegno, quello della revisione dei criteri dell'albo nazionale. Che cosa concretamente ci si può attendere che le parole di Napolitano, dal punto di vista istituzionale, ma del governo, dal punto di vista concreto, si possano tradurre in qualche cosa di significativamente diverso da quello che si è visto e soprattutto non si è visto in questi anni? Ma innanzitutto questa convocazione che noi abbiamo fatto era una convocazione per il volontariato per riflettere, quindi diciamo che nell'udienza al Quirinale il fatto che il ministro Sacconi in questa occasione abbia parlato di continuità per i 5 per mille è uno dei motivi di attenzione che ci ha fatto piacere. Devo dire che però il livello di attenzione è molto lontano dall'essere quello che secondo me il volontariato e il terzo settore merita in generale. Lo dico perché spesso sentiamo parlare del volontariato come una cosa bella, buona, che se non ci fosse l'Italia avrebbe dei problemi e tutte queste cose. In realtà poi vediamo dei provvedimenti in continuazione che mettono in difficoltà il volontariato. Lei ne ha segnalati 2. Sul 5 per mille sicuramente il tema più grosso non è tanto, intanto vorrei dire una cosa molto chiara perché la gente potrebbe capire male, il 5 per mille non è la fonte prioritaria di sostentamento delle nostre organizzazioni. Giustissimo rilevarlo, giustissimo. Il 5 per mille è una piccola parte, le nostre organizzazioni campano di donazioni, di quote associative, di persone che ci aiutano, di aiuti che vengono dalle fondazioni di origine bancaria e quando svolgono dei servizi in affidamento dalle pubbliche amministrazioni del riconoscimento dei costi sostenuti per le attività che svolgono. Questo è nella sostanza il sistema di finanziamento delle nostre attività. Il 5 per mille, che è una misura che all'inizio ci aveva preoccupato perché all'inizio era stata indicata come un metodo per spingere il volontariato a sostituirsi alle responsabilità del pubblico, che sarebbe molto sbagliato. Infatti in quell'epoca, nella prima stesura del 5 per mille, il ministro Tremonti contemporaneamente aveva detto taglio il fondo sociale contemporaneamente mentre aumentava il 5 per mille. Su questo noi ci siamo sempre battuti e per questo motivo all'inizio eravamo scettici su questa linea. Ora il 5 per mille c'è, purtroppo il fondo sociale è stato tagliato in modo sostanziale, questo crea problemi non indifferenti perché se è vero che arriva qualche soldo col 5 per mille in terribile ritardo, contemporaneamente noi svolgiamo servizi spesso per le amministrazioni comunali, per le aziende sanitarie che per effetto dei tagli alla spesa pubblica poi vengono riconosciuti anche solo nei costi che noi svolgiamo, perché non mettiamo il personale dipendente su questa attività, il volontariato, però ha costi, non so, un'ambulanza che fa un servizio, ha costi di benzina, gomme e quant'altro, il riconoscimento dei costi arriva spesso in ritardo di 2-3 anni, quindi 5 per mille è una piccola linea. Quindi io direi che l'ascolto è molto scarso. Da questo punto di vista, per dare qualche dato a chi ci ascolta, ricordo che era, non ricordo se fine luglio o inizio agosto, quando uscì il dato che avevate espresso per quantificare il debito arretrato della pubblica amministrazione nei confronti del totale del terzo settore, erano, se non mi ricordo male, una ventina di miliardi. Infatti la cosa terribile è che le associazioni, oltre a muovere la solidarietà, il lavoro gratuito, in alcuni casi anche inserimenti lavorativi dei disabili, quando si parla di cooperative sociali e quant'altro, nonostante quello si trovano spesso a fare da banca per le pubbliche amministrazioni. Credo che questo sia veramente gravissimo. Devo dire che in generale quest'anno è stata fatta anche un'altra operazione terribile nei confronti del volontariato, che è stato il taglio sostanziale dei fondi per il servizio civile. La gente non capisce probabilmente, perché spesso il servizio civile viene visto come un lavoro sostitutivo, che non è così, però il servizio civile all'interno dell'organizzazione di volontariato è un volano favoloso per la presenza dei giovani, per la crescita delle potenzialità di queste associazioni, e quest'anno abbiamo dimezzato le partenze, l'anno prossimo non si vede ancora la luce. Ultimo, insomma, in complessivamente pratica, il servizio civile quanti giovani, o anche non giovani, ma insomma comprende oramai? Quest'anno sono stati messi in servizio circa 25.000 giovani a partire da ottobre, quindi fine anno. L'anno scorso avevamo 40.000 giovani in servizio. Teniamo presente che di questi una parte importante svolge servizio civile nelle pubbliche amministrazioni, nei comuni, quindi certo. Alla fine questo taglio che si è... No, ma le ho chiesto i numeri perché quantitativamente si capisce che passare da 40.000 a 25.000 non è proprio appunto poco, ecco. Faccio un esempio semplice: nella mia organizzazione, che è l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, noi siamo passati da 2.500 giovani in servizio a 1.000, ecco. Questo per darle l'idea, e questi sono i giovani che poi, rimanendo come volontari, sono intervenuti in modo sostanziale in Abruzzo, per esempio, certo. Nell'intervento di protezione civile. Ecco, la cosa però che noi abbiamo voluto rivendicare in questi due giorni è proprio questo, cioè noi non vorremmo essere volontariato che fa bello lo Stato, o che è importante è che faccia e stia zitto. Noi vogliamo essere un volontariato che, siccome è fatto di gente che si sente la responsabilità delle cose pubbliche, sia ascoltato anche quando si decidono le politiche più importanti, non solo le regole riguardanti il volontariato. Esattamente. Sono molto a sostegno della visione che la sussidiarietà, cioè il processo che dal basso informa di sé nell'offerta dei servizi, nella gestione dei servizi, con l'idea che chi sa far meglio bisogna metterlo in condizione di far meglio, deve proprio per questo partecipare al meglio alla definizione delle politiche dal basso, forse perché conosce e soddisfa meglio delle strutture pubbliche dall'alto, dei partiti, della politica, le esigenze dei cittadini. Don Vinicio Albanesi e storicamente tra coloro che, per esempio, di fronte all'idea del 5 per 1000 dicevano: state attenti, perché questo è uno strumento che ha dei rischi in sé, ci attira verso una logica che è impropria, e anzi poi alla fine è diventato anche una specie di elemosina che ci fanno pure pesare, pagare e così via. Dominicio, perché questa idea? Mi piace molto l'idea di poterle chiedere di esprimerla, perché in definitiva poi sulle fonti di finanziamento, sulle modalità di finanziamento è giusto aprire anche una riflessione. No? Ma è semplice, perché è esattamente una partita di giro, cioè sottraggono risorse per il fondo sociale, le mettono nel cosiddetto 5 per 1000, tra l'altro un 5 per 1000 è molto precario, quindi che la politica governativa è semplice, dicendo sottraggo 50, poi se recuperi te ne do 30, questo è il meccanismo, e quindi è un meccanismo infernale, perché alla fin fine c'è una sottrazione di sostegni che lo Stato dovrebbe dare nei confronti di chi sta male, di chi ha problemi sociali. In più quest'anno, proprio all'inganno c'è la beffa, il 5 per 1000 dipende dal rientro dei capitali dallo scudo fiscale, sì. Dallo scudo fiscale. Quindi siamo messi in mezzo a banditi, perché questi sono quelli che esportano denaro per non pagare la fiscalità, e noi andiamo a pescare all'interno della fiscalità rientrata. Diciamo che con lo scudo fiscale dovrebbero essere dei figlioli prodighi adesso che tornano. Vedo che un po' ridacchia alla definizione, insomma. No, tra l'altro immersi in una specie di popolo di poveri tra gli aiuti all'Abruzzo, la ricerca scientifica, i libri scolastici, insomma una politica sociale fatta di elemosi. Ecco, Don Vinicio fa riferimento al fatto che proprio negli 250 commi che sono scritti in questi dall'altro ieri, aggiunti all'ultimo secondo in finanziaria alla Camera, è in atto questa specie di guerra tra poveri, cioè tra disputarsi le poche centinaia di milioni di euro in più tra la ricerca e l'impresa, perché c'è anche questo, Don Albanesi, la ricerca e all'impresa di cui non c'erano i fondi, il 5 per 1000, volontariato, i libri della scuola, diventa una guerra all'ultimo secondo, condotta oltretutto in condizioni di opacità molto notevole, perché si tratta di chi è più bravo a trovarsi fuori la porta della commissione finanze di Montecitorio nel corso di una notte, cioè insomma un meccanismo un po' singolare. Torneremo poi con Lucio Albanesi. Volevo chiedere a Luigi Bobba, deputato del PD, che ringrazio per essere qua, per tacitare le proteste che già sono in arrivo. Luigi Bobba è del PD, abbiamo chiesto ieri tutto il pomeriggio anche a membri dell'intergruppo della sussidiarietà del centrodestra di essere con noi, non siamo riusciti a trovarne uno, non faccio i nomi, avevano tutti legittime giustificazioni, lo stesso abbiamo fatto con componenti del governo, e perdonatemi, ma alla fine poi le trasmissioni si fanno anche con chi avverte la disponibilità e con chi ha la sensibilità di parlare di questi temi al di là dei giorni di festa. Quindi, onorevole Bobba, Don Albanesi tutto sommato è un po' tagliente come sempre, ma forse tutti i torti non ce l'ha, lei che pensa? Ma guardi, non sono d'accordo, nel senso che per esempio durante i due anni pur tormentati del governo Prodi il fondo sociale venne incrementato e allo stesso tempo, pur in modi rocamboleschi, furono stanziati i soldi per il 5 per 1000. Quindi dipende dal tipo di politiche che si fanno. Io vorrei sempre ricordare che il 5 per 1000 non dipende dallo Stato. Sì. Lo Stato introduce solo un meccanismo per garantire la sussidiarietà fiscale, ma dipende dal contribuente, perché se domani, anziché più dei due terzi dei contribuenti dicono sì, do il mio 5 per 1000 a un'associazione che fa volontariato, ricerca, eccetera, eccetera, non lo voglio dare, non lo do, quel 5 per 1000 non va a nessuno, rimane nelle casse, diciamo, generali dello Stato. Quindi è il cittadino, cioè secondo me è la cosa straordinaria di questo paese, ed è vero quello che lei diceva nell'introduzione, quando più dei due terzi dei cittadini hanno deciso di mettere una crocetta indicando una finalità generale, oppure scrivere un numero fiscale, un numero di codice fiscale sulla propria dichiarazione dei redditi, significa che effettivamente le associazioni, il volontariato sono nelle fibre costitutive di questo paese, sono un fenomeno popolare, sono una realtà quotidiana e i cittadini danno i soldi anche attraverso il 5 per 1000, oltre che con le quote associative, le donazioni, eccetera, eccetera, a quelle organizzazioni, a quelle associazioni di cui si fidano, di cui vedono i risultati, che diciamo sanno che fanno bene le cose, le fanno per quelle finalità per cui sono state costituite. Quindi bisogna partire da questo principio, poi capisco che nella contingenza questo governo fa appunto politiche improvvisate, io come lei ha ricordato faccio parte dell'intergruppo della sussidiarietà, noi avevamo preparato una proposta di legge bipartisan per stabilizzare il meccanismo del 5 per 1000, per dargli un sistema ordinato che non entrasse sempre nel tritacarne delle finanziarie come è avvenuto da 5 anni a questa parte. Ebbene, quando la Presidenza del Senato aveva già attribuito la cosiddetta legislativa, cioè si poteva approvare la legge in commissione, è arrivato un fogliettino della Ragioneria Generale dello Stato rispetto all'impegno di spesa con scritto non coperto. Punto. E così la legge si è fermata e siamo rientrati anche quest'anno nel solito tritacarne. Quindi attenzione, il principio è giusto, perché sono i cittadini che scelgono e quindi alimentano quella sussidiarietà che nasce appunto come un comportamento dal quotidiano, dalle nostre comunità. Ciò che è sbagliato è la regolazione di questo meccanismo, che non può essere una tantum ogni allora, anno. Onorevole Bobba, e secondo, no, non si può lasciare alla burocrazia che ogni volta complica la vita, e anche una cosa buona rischia di diventare un problema. Onorevole Bobba, le interrompo solo perché abbiamo la pubblicità, quindi è spazio obbligato. Riprendiamo poi da una domanda per consentire a chi a casa in ascolto vuole capire: ma se i 5 per 1000 appunto esprime la libera scelta del cittadino contribuente, perché c'è un problema di attribuzione e di copertura anno per anno irrisolto dal centro-sinistra e dal centro-destra nel riconoscimento dei flussi? Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando dei problemi del volontariato dopo questa assise di due giorni convocata a Roma dai maggiori coordinamenti delle oltre 40.000 associazioni, in cui si comprendono gli oltre 6 milioni, sottolineo questa cifra, oltre 6 milioni di italiani impegnati nel volontariato. Prima di tornare alla domanda su cui ci eravamo interrotti per tentare di spiegare meglio i ritardi nell'assegnazione, nella copertura dei fondi del 5 per 1000 scelti liberamente dal contribuente italiano, vi faccio un aggiornamento delle notizie più gravi di giornata, perché in questo 8 dicembre abbiamo un bilancio di vittime di attentati in Iraq a Baghdad, 4 autobombe, siamo a 8 morti, 13 feriti, il bilancio provvisorio. In Pakistan hanno attentato in una sede dei servizi segreti, l'ISI, quelli pakistani, in una città del Punjab, Multan. Per il momento il bilancio è di 12 vittime. Ora, dicevamo, onorevole Bobba, come mai c'è questo ritardo se scelgono i contribuenti? Ma guardi, ripercorriamo un attimo come è nata la... nacque nel dicembre del 2005, l'idea fu di Tremonti, e quel primo anno fu introdotto come misura sperimentale perché non si sapeva se i cittadini italiani avrebbero aderito o meno a questa possibilità. Sorprendentemente, già fin dal primo anno quasi il 60% dei cittadini aderirono, diciamo, alla possibilità di versare questo 5 per 1000, tant'è che ricordo che l'anno successivo cambiò il governo, c'era il governo Prodi dovette dovette aumentare la dotazione perché le richieste fatte dai cittadini erano superiori alla previsione di quella misura sperimentale originata dal ministro Tremonti. Tant'è che io andai da Prodi dicendogli: ma visto che ci hai messo anche i soldi, che i cittadini sono stati così contenti di questa misura, scrivi a tutti che fate bene a sostenere le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni associative. Poi di anno in anno, e questa è stata l'insipienza della politica, anziché prendere atto che i 2/3 dei cittadini italiani vedevano bene questa cosa e che quindi sarebbe semplicemente normale riconoscere che questa misura entri ordinariamente nella nostra legislazione, non lo si è mai fatto, perché ogni anno c'era sempre qualcuno che ostacolava questa misura, non voleva che diventasse, diciamo, un elemento ordinamentale, e così siamo ancora al balletto delle finanziarie di anno in anno. Ma nel momento in cui la misura è introdotta, si introduce di fatto un diritto soggettivo da parte del cittadino di vedere destinati quei fondi che lui ha indicato nella sua dichiarazione. Quindi il tema vero è l'incapacità della politica, quello che diceva Casini all'inizio, di riconoscere effettivamente, non a chiacchiere, che questo mondo, questa realtà, queste associazioni, queste organizzazioni producono interesse pubblico, valore sociale, e dunque la politica avrebbe tutto da guadagnarci, perché sa che queste organizzazioni migliorano la vita di tutti, danno, diciamo così, un colore e un calore diverso alla comunità in cui sono inserite. Oltretutto, onorevole Bobba, su questo punto, no, la interrompo solo per asseverare, sì, rafforzare quello che dice, perché io, che pure passo per individualista, liberista, un offertista che ha studiato a Chicago, faccio presente che decenni oramai di letteratura accumulata dicono che questa cosa che fa il volontariato si chiama capitale sociale. Ecco, il capitale sociale, tutti gli studi comparati dei paesi in via di sviluppo, quelli sviluppati, quelli più o meno sviluppati dell'OCSE, comprovano che il capitale sociale è un moltiplicatore di sviluppo, perché consente a un pilastro fondamentale del mercato, cioè la fiducia, e all'altro pilastro fondamentale del mercato, cioè le regole, di funzionare meglio, perché aumentano il grado di, si chiama compliance sociale, di adesione spontanea alle regole di un ordinamento per farlo funzionare meglio, molto meglio dal basso per adesione volontaria ed economia del dono di quanto possa avvenire per un obbligo dall'alto. Quindi serve a far funzionare tutto meglio. Non è la visione solo di San Martino che apre e certo. divide il suo mantello, che pure è una cosa di grande forza per chi crede e per chi vuole sostenere chi non ha, ma è un grande moltiplicatore che consente nel tempo, attraverso la soluzione di problemi a cui il mercato oggi non dà una risposta per miopia, di poi far crescere tutti di più. Allora, ho una serie di domande dai nostri ascoltatori a cui poi facciamo rispondere voi. Mi tocca intanto come giornalista aggiornare il bilancio degli attentati a Baghdad, almeno 22 morti e 60 feriti. Questi 4 attentati temo che avranno un bilancio in via di aumento purtroppo rapido nelle prossime ore. Allora, iniziamo con alcune telefonate. Abbiamo innanzitutto Mimma dalla provincia di Napoli. Prego Mimma. Pronto, buongiorno, sono Imma. Io, buongiorno a tutti, sono una volontaria ospedaliera. La nostra associazione è presente, siamo 30.000 in Italia e praticamente siamo presenti nelle più grosse strutture ospedaliere nazionali. Per quello che riguarda la mia esperienza, voglio segnalare due piccolissime cose. Innanzitutto, come già sottolineato, c'è il problema ovviamente del 5 per 1000, e questo è un problema molto grosso. E questo l'abbiamo visto. Il secondo? E questo. Poi volevo dire che c'è assolutamente un disinteresse da parte delle strutture locali. Ogni volta che ci permettiamo di trasformarci anche in postulanti e chiedere magari una piccola offerta, chiamiamola così, per le piccolissime spese che abbiamo, oltre perché ci autotassiamo per le quote associative, e ci sentiamo ovviamente i comuni che poi non sono d'accordo e che a loro volta dicono di essere in russo. Mimma, anche i comuni sono infilati nella lunga lista di coloro che con gli emendamenti all'ultimo secondo a Montecitorio hanno tentato di avere ciò che non avevano avuto, cioè le risorse dopo i tagli dell'ICI da una parte, risorse in parte per la dubbia, dal mio punto di vista, copertura delle multe comminate in Europa per via delle municipalizzate. Quindi abbiamo parlato con Chiamparino proprio 2 giorni fa, i comuni a loro volta dicono noi siamo tagliati e invece non possiamo tagliare i servizi. Gianfilippo da Prato, poi facciamo rispondere i nostri ospiti. Prego Gianfilippo. Sì, buongiorno. Allora, volevo dire, io sono un po' contrario a tutte queste cose e mi spiego. Non è che sono contrario al volontariato, il volontariato in sé esiste pochissimo. Quando si va a vedere volontariato assistito, vogliono dire 2 cose. Uno, che se non c'è lo Stato, il comune che paga, non si fa nulla o quasi, va bene. Oppure tutte queste cose che si vedono si fanno solo per altri scopi, vedi politica. Io mi riferisco a casi dove sono vissuto, Poggi Ponzi, ci sono 2 grandi, una è la pubblica assistenza, quell'altra la Misericordia, che li conosco tutti, ci sono stato da tutti eccetera. Ma guarda, quello lì m'ha fregato un lavoro, eccetera, eccetera. Ci sono business, vedi il business dei cimiteri, no? Perché vendono. Allora. Però Gianfilippo, un secondo, non la voglio interrompere, le faccio una domanda, perché avendomi segnalato che la pensavo così, io apposta le ho dato voce. Per come lei conosce nel tempo, nei secoli, perché in quel caso stiamo parlando di secoli, per esempio in Toscana, l'esperienza delle misericordie, si sente dire che le misericordie, per la storia che hanno, per il tipo di adesione e sostegno che hanno, per chi presta la loro opera, fa i corsi per andare sull'ambulanza e così via, dipendono dai partiti, le misericordie che vengono dalle sale dei comuni. Se non si vuole vedere. Allora, proprio. Quando lei è dentro. Sente, dice, passa un'ambulanza, questo qui mi ha fregato un servizio perché è di quell'altra parrocchia. Sì. Allora, tutto questo, perché poi 5 per 1000, ma c'è il Monte dei Paschi. È chiarissimo. Infatti ci sono tante altre cose. Io ho fatto il volontariato piccolo da altre parti, sì. Mi sono fatto dare dei soldi da loro, quindi si figuri se sono contrario. però quello che bisogna smettere di dire volontariato, diciamo volontariato assistito, cioè è lo Stato. Grazie Gianfilippo, adesso facciamo rispondere loro. Io per esempio ho un'esperienza diversa, io assisto malati terminali, mi sono un po' specializzato nel tempo per via anche dei miei problemi. Io invece conosco gente che lo fa a prescindere da adesione a partiti, gente che lo fa, credenti e non credenti insieme, e si è anche specializzata per questo. Però mi rendo conto che esiste questa questione di massa e preferirei che Fausto Casini desse una risposta molto esplicita. Alcuni dicono che in alcune regioni italiane in effetti oramai il grado di parallelismo, di sovrapposizione rispetto a versante da una parte cristiano centrodestra, dall'altra organizzazioni parallele alla sinistra o sostenitrici in qualche misura della sinistra, e quindi finanziamenti incrociati, rappresentano la vera intelaiatura di fondo di questa cosa. La mia esperienza è diversa, ma può essere che sia minoritaria. Lei che risponde a questa obiezione di fondo? Ma guardi, io sono il presidente nazionale delle pubbliche assistenze, che in quanto che sono l'altro pezzo del grande volontariato toscano, che ha fatto la storia del volontariato in Toscana negli ultimi 5 secoli. Allora, è ovvio che quando in una comunità, in un territorio, ci sono 2 grandi organizzazioni, come possono essere Pubbliche Assistenze e le Misericordie, che in cui operano, mettiamo, il 50% dei cittadini di quel paese, è normale che nel tempo la politica cerchi in un qualche modo di utilizzare la vicinanza con questi soggetti per creare consenso, ma questo credo che sia normale. Io devo dire che quello che il signore toscano sottolineava è una cosa che è in via di attenuazione, esattamente il contrario di quello che lui sta dicendo, cioè i processi di collateralismo partitico erano molto più forti in altre epoche. In questo momento io sono il presidente delle pubbliche assistenze, le pubbliche assistenze sono 840, su 100.000 volontari una parte sono in Toscana, altre parti. Insomma, è ovvio, l'origine delle pubbliche assistenze è la società di mutuo soccorso operaio e sono di origine laica, quindi è più facile che trovi una propria raffigurazione all'interno dell'associazione, una persona laica, magari visto poi un territorio come Toscana. Però devo dire che non è più legata così a doppio mandato ai partiti. Sul sistema del volontariato assistito vorrei dire una cosa molto precisa. Un conto è quando si parla del volontariato piccolo, che per esempio le pubbliche assistenze esistono anche piccole associazioni nelle montagne o roba del genere. Un conto è quando in un territorio si svolgono attività di servizio importanti che prevedono anche degli standard qualitativi. Eccoci tornati in studio per questa terza parte dedicata oggi al forum, a questa assise che c'è stata il 4 e 5 dicembre a Roma tra i maggiori coordinamenti nazionali del volontariato italiano. Abbiamo visto alcuni dei problemi aperti, siamo arrivati in questa ultima fase a occuparci dell'influenza impropria che è la partita politica, che i partiti in quanto tali eserciterebbero all'interno del mondo del volontariato. Avevo interrotto Fausto Casini esattamente su questo punto. No, prendo velocemente, insomma è una visione un po' la Peppone Don Camillo, quella che stava dicendo prima il signore Toscano. La sostanza è questa: dove le associazioni di volontariato svolgono importanti attività, il rischio di collateralismo c'è il rischio che soprattutto non i partiti, ma chi esercita cariche istituzionali, l'assessore di turno, cerchino di agganciare in logiche di clientela il volontariato, che perché è riconosciuto dalla gente. Questo rischio c'è, ovviamente, la politica ha molte più armi, il volontariato però, se è serio, è capace di difendersi. Infatti in questo diventa molto importante per esempio la costruzione delle reti, la formazione dei dirigenti, che è una delle cose per cui abbiamo chiesto una maggiore attenzione, perché oggi le reti per esempio non sono riconosciute a livello nazionale. Quindi ecco, questa è un po' l'idea: il volontariato è un'aggregazione di cittadini che si aggregano volontariamente, in modo libero. Sentiamo Don Vinicio Albanesi cosa ne pensa su questo. Quanta politica e quanti partiti ci sono? Ci sono tentativi, assalti a cui bisogna dire no? Ma no, io credo che dipenda da come l'organizzazione di volontariato si orienta. Se è puramente assistenziale, diciamo, non ha pensiero critico nei confronti del sistema generale, del sistema dei servizi nel nostro paese, del welfare, allora diciamo che ha più un'influenza, una tendenza verso centrodestra, oppure esattamente il contrario. Ma molto dipende dalla capacità che l'associazione ha di essere seria, efficace e soprattutto risolutiva, perché dopo anni che un'associazione sta su un territorio, qualsiasi assessore più o meno deve fare i conti con questa associazione che svolge effettivamente dei servizi. Però che ci siano degli orientamenti diversi, d'altra parte sono composte da cittadini e cittadine, orientamenti diversi nell'area del volontariato, questo non bisogna negarlo, e forse è anche un bene, nel senso che la concezione delle risposte ai disagi della gente nascono da radici e da modalità anche differenti. Abbiamo ancora una chiamata, Francesca d'Arezzo. Prego, Francesca. Buongiorno. Dica. Buongiorno a lei e a Don Vinicio, che stimo e ammiro molto. Niente, mi piaceva trattare anche il volontariato da un altro aspetto, soprattutto psicologico, di quanto fa bene fare volontariato, di quanto ti dà carica, ti fa dare fiducia nell'altro in un momento dove tutti hanno paura. Secondo me è una forma di antidepressivo, il dono è una grande forma di socializzazione, di stare bene. Volevo sottolineare questa cosa. Francesca, io la ringrazio perché a me in particolare, nella mia piccola, modestissima esperienza, mi ha fatto sentire vivo quando tutti dicevano che forse poteva non essere così, proprio attraverso il fatto che chi condivideva con me nei reparti le cose era una reciproca scommessa su noi stessi, per gli altri, su noi stessi, per chi ci veniva prima di noi e per coloro che venivano dopo di noi nella nostra catena di responsabilità. E quindi io ho sperimentato nella mia vita che questo è il volontariato e sono convinto che poi ciò che ho fatto per quei malati, per quei reparti, per quelle aziende ospedaliere, anche fuori di là, è nato tutto perché avevo paura, e questa esperienza della paura, poi dell'arricchimento, dell'impegno moltiplicatore anche di risorse, di possibilità amministrative, in definitiva io l'ho sperimentato proprio per quello che diceva Francesca. Quindi mi permetto di sottoporlo anche a chi è in ascolto e pensa che sia un'attività antieconomica, è un'attività non utilitaristica, un'attività poco coerente al reddito disponibile, che si può massimizzare solo con atteggiamenti improntati esclusivamente al ritorno immediato. Onorevole Boban, in questo calendario del 2010, dopo la finanziaria, dopo la questione del 5 per 1000 eccetera, il gruppo dell'intersussidiarietà che cosa può concretamente attendersi come risposta aggiuntiva a quello che abbiamo visto, in un quadro in cui ovviamente la disponibilità delle risorse pubbliche e quindi una ridislocazione delle risorse, una diminuzione delle risorse nette, chiede alla sussidiarietà di farsi carico anche di logiche che pezzi di mondo di sussidiarietà definiscono un po' improprie? Ma intanto volevo sottolineare anch'io quello che ha detto la signora, perché penso sia un elemento forse cruciale, centrale del mondo associativo e del volontariato. Io in un piccolo libro di un'intervista che ho fatto di recente, intitolata Non Profit, l'ultimo capitolo è proprio intitolato Le risorse spirituali del non profit, il dono e la comunità. E credo che senza quelle, diciamo così, questo mondo non si potrebbe comprendere. Per quanto riguarda l'intergruppo sussidiarietà, abbiamo in cantiere, sto per depositare a mia firma e di Maurizio Lupi, vicepresidente della Camera, un progetto di legge che riordina il sistema di inserimento lavorativo per le persone disabili. No? Anche qui credo che sia una funzione fondamentale che anche coloro che hanno una qualche handicap possano esprimere al meglio i loro talenti e trovare le modalità attraverso cui appunto il lavoro diventa un elemento non solo di inserimento sociale, ma prima di tutto di realizzazione personale. In secondo luogo, io penso, questa è una mia proposta, proporrò all'intergruppo di giungere a formulare una proposta quadro di legislazione per il mondo associativo del non profit. Abbiamo una legislazione troppo ingarbugliata che poi consente all'amministrazione pubblica di fare delle mostruosità, come sono appunto il modello EAS che lei ha citato inizialmente, che alla fin fine, con lo scopo buono di colpire i furbi, crea un sacco di danni alle persone che fanno associazione e volontariato in modo del tutto legittimo e del tutto pulito. Credo che una legislazione più semplice, più chiara, che garantisca maggiore sostegno alle organizzazioni che hanno maggiore meritorietà sociale, cioè che fanno le cose più difficili che nessuno fa, e man mano questo sostegno dello Stato diminuisca laddove invece ci sono compiti, diciamo, più semplici, più leggeri, credo che sarebbe il modo da parte dell'istituzione della politica di riconoscere il valore effettivo nella costruzione della vita sociale, della promozione della comunità, e soprattutto credo che in fondo queste associazioni del volontariato oggi sono la risorsa fondamentale contro il male di questo secolo, che è la solitudine. E la solitudine poi genera mille altri mali. Non c'è dubbio. Anche su questo io sono d'accordo. Io devo dire che io invito tutto il mondo del volontariato, Fausto Casini, tutti i membri delle maggiori associazioni, a impegnarsi in questo. Io prenderei sul serio anche quello che diceva il libro bianco del ministro Sacconi, che indicava nella sussidiarietà una prospettiva pressoché obbligata nella definizione del welfare. Allora bisogna che la sussidiarietà, cioè il volontariato, chieda la parola, prenda la parola, si impegni a distribuire in pubblico pillole, e più che pillole, dosi massicce di questa saggezza e di questa economia del dono di cui impregna la vita di milioni di individui e di coloro che ne beneficiano tutti i giorni. Non crediate che lo abbia fatto solo perché oggi è l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione. Lo faccio perché sono proprio convinto di quello che dica. Si può essere mercatista e donatista, non il vecchio eretico donatista, ma colui che dona insieme. Bene, grazie a Valeria Bernardi, ottima regia, Alessandro Marco Tulli, oggi un po' discutibile invece in redazione, e la linea generale radio, l'appuntamento a domani.